Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano, benvenuti alla nuova puntata dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo d'Italia, parliamo della storia d'Italia e lo facciamo con Marco Pivato. Buonasera Pivato. Buonasera a voi. Marco Pivato è un giovane giornalista di formazione chimico-farmaceutica e ha scritto per Donzelli Editore il libro Il miracolo scippato, le quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni 60. Quindi un libro di storia, un libro di politica, un libro che racconta come mai l'Italia negli anni 60 abbia fatto delle scelte che hanno tagliato le gambe in quattro importanti settori. Parla Pivato del caso Olivetti, del caso Mattei, del caso Ippolito, del caso Marotta. Ecco, qual è stata l'ispirazione di fondo, Pivato, che l'ha portata a scrivere questo libro? Ma innanzitutto il clima generale italiano. Per me, che sono un giovane di 30 anni e che mi guardo in giro, ecco, con la voglia di conoscere la storia del mio paese e quindi di capirne il carattere. Io credo che per capirne il carattere bisogna rileggere il passato e quindi interpretarlo. La tesi di fondo, in parte l'ha illustrata lei, è quella che l'Italia avrebbe potuto, in un certo periodo storico, parliamo del boom economico, costruire un po' alla volta un impero economico basato sull'innovazione, la ricerca scientifica. Non perché io sia un fan della ricerca scientifica, uno di quelli che dica bisogna investire in ricerca e sviluppo, un po' come gli ambientalisti che hanno le loro cause personali, eccetera, ma proprio perché l'Italia, come diceva giustamente lei, aveva effettivamente su un piatto d'argento quattro occasioni importantissime. L'Italia ha inventato il nucleare, Enrico Fermi era italiano e ha inventato il nucleare. L'Italia, grazie all'ingegno di Olivetti, ha inventato il primo computer commerciale della storia, si tratta di Elea 9003. L'Italia era l'Italia di Enrico Mattei, che negli anni del boom economico stava dando carburante alla fornace del paese, erodendo un po' alla volta il monopolio delle compagnie petrolifere americane. Avevamo un istituto superiore di sanità che faceva il contrario di quello che oggi noi chiamiamo brain drain, cioè la fuga dei cervelli, tanto che sui banchi degli istituti superiori di sanità venivano a studiare, a prepararsi i futuri premi Nobel, cito Ernst Chain e Daniel Bovet, entrambi per la medicina. Tutto questo corso, questo virtuosismo è stato interrotto. Ecco, sono quattro indizi che, come si dice, portano poi a una prova che non sono solo dei fatti in fondo casuali messi insieme, ma che c'è una disattenzione di fondo del sistema italiano di fronte all'innovazione, quasi una resistenza di fronte alle possibilità innovative e qualche volta anche a far sì che queste innovazioni vengano frenate per gli interessi di altri. Infatti, ma il primo a teorizzare questo legame tra innovazione e creazione di ricerca fu Schumpeter già un secolo fa ormai, ma lui aveva la teoria, gli americani e il resto del mondo ebbero i fatti, le prove all'indomani del progetto Manhattan, all'indomani delle missioni spaziali sulla Luna, quella che chiamiamo big science, cioè la scienza che si serve di grandi mezzi politici, economici, di ingenti investimenti dal punto di vista quindi sia economico sia di risorse umane. L'Italia perché non ha fatto questo? Perché non ha scelto un modello di sviluppo economico e sociale basato sulla ricerca? Secondo i miei interlocutori, perché si tratta di un'inchiesta che ha coinvolto numerosi interlocutori, esperti, viventi, il problema è esattamente il problema è la politica. Noi abbiamo avuto per 50 anni governi che sono rimasti in carica in media 3 anni, quando andava bene, e la scienza, la ricerca scientifica, gli investimenti nella ricerca scientifica sono investimenti di lungo periodo. Quindi un politico, come diceva per esempio Umberto Veronesi, come diceva Sergio Zavoli, come diceva Rita Levi-Montalcini e anche altri scienziati, la scienza è un progetto di lungo termine, infatti. Di lungo termine, che ha bisogno di tempo. Purtroppo anche i governi che sono durati più di 3 anni non hanno fatto in fondo delle grandi politiche di sostegno alla ricerca e alla scienza. Ma volevo tornare un attimo a un esempio concreto, quello dell'Olivetti, perché in questo libro si racconta una storia che forse pochi conoscono, cioè, come aveva anticipato anche prima, che era stata proprio l'Olivetti a fare il primo computer, il primo elaboratore elettronico, un'azienda che era in grande crescita sulla scia appunto delle vendite dei calcolatori meccanici che avevano fatto dell'Olivetti una multinazionale, era riuscita ad arrivare per prima al mondo a creare un elaboratore elettronico. E poi perché si è fermata? Si è fermata perché sono avvenuti due fatti cruciali nella storia dell'Olivetti. Nel 1960 muore di infarto per cause naturali, quindi Adriano Olivetti. Un anno dopo muore il suo cavallo di battaglia, l'ingegner Mario Chu, che aveva progettato Elea 9003, l'elaboratore elettronico di nuova generazione, il primo computer italiano commerciale. Cosa succede? Succede che, così come oggi nel caso dell'Alitalia, nel caso di Parmalat, eccetera, lo Stato interviene e cerca di salvare queste grandi aziende, fece la stessa cosa al tempo, creando un gruppo di intervento misto pubblico e privato, quindi dove c'erano banche e anche privati, tra cui la Fiat di Valletta, che prende in mano la situazione e cerca di risanare il deficit. Peraltro, proverso, non c'è nelle mie ricerche, nelle ricerche di altri, non c'è alcuna, non è stato redatto un bilancio, ecco, quindi questo deficit non si capisce di quale entità fosse. Prende in mano la situazione il gruppo di intervento. La prima decisione di Valletta della Fiat è quella di tagliare il settore dedicato all'elettronica. Lo svende alla General Electric americana, di fatto riportando l'Olivetti sulla strada delle macchine da scrivere. Quindi io mi chiedo se, chissà, se questo intervento, questa svendita non ci fosse stata, se una Apple o una Microsoft non fossero sorte, nate e sviluppate in Italia, con tutte le conseguenze economiche, i posti di lavoro che avrebbe creato. Ecco, un caso non uguale, ma come conseguenze simili, è stato quello dell'Istituto Superiore di Sanità, il caso Marotta. Anche questo è un caso poco conosciuto, uno scandalo che è stato un po' montato un po' sulla sabbia. Esattamente, il caso Marotta fra l'altro è strettamente legato al caso di Felice Ippolito. Ippolito era il segretario del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare. Vi fu una campagna stampa violentissima ai danni di Felice Ippolito da parte della destra, che sui giornali tentarono di screditarlo attraverso indagini che riguardavano falsi in bilancio, cose risibili al giorno d'oggi. Stessa cosa, diciamo per vendetta, fece la sinistra nei confronti di Domenico Marotta, caduto un personaggio della sinistra, la sinistra voleva far cadere un personaggio della destra, quindi Domenico Marotta, perché Domenico Marotta rappresentava l'Istituto Superiore di Sanità, quindi il governo, poi aveva un passato, insomma, ecco, era un uomo di destra. Quindi una lotta politica, infatti dobbiamo purtroppo avviarci alla conclusione, una lotta politica che ha portato a sacrificare le ragioni della ricerca, le ragioni della scienza, alle ragioni invece... In nome dei personalismi, degli identitarismi, delle battaglie personali, senza tenere in minimo conto il bene del paese, il bene comune. Ecco, in questo l'Italia si è avviata poi negli anni successivi nell'illusione che ci potesse essere uno sviluppo e un'innovazione senza la ricerca, mentre la ricerca resta fondamentale, l'Italia è agli ultimi posti nella ricerca scientifica e tecnologica. Infatti. E oggi ne paghiamo sempre di più il prezzo, perché viviamo in una società dove la scienza è dappertutto. Chiunque, insomma, chiunque utilizza internet, chiunque va dal medico, chiunque utilizza uno strumento tecnologico come può essere la macchina, o il cellulare o il telefonino, insomma, la scienza è affare pubblico, è affare sociale. Non andiamo a votare sull'aborto, siamo stati a votare sulle cellule, sugli embrioni, sulle cellule staminali. La scienza è un affare pubblico, quindi disinteressarsi della scienza e delle sue ricadute non è affare di scienziati che stanno in una torre d'avorio, è affare di tutti, e questo purtroppo sempre più è importante nella società di oggi. Peccato non averci pensato prima. Ecco, è nella stessa logica. È importante allora conoscere anche cosa è avvenuto in passato, conoscere gli errori del passato può essere utile per cercare di non commetterne in futuro. In fondo l'Italia è un grande paese, ha grandi potenzialità, soprattutto umane, anche sul fronte della ricerca scientifica, ed è bene valorizzare queste potenzialità. Grazie a Marco Pivato, autore del libro Il miracolo scippato, edito da Donzelli. Sono 200 pagine per 18 euro, un libro che, ricordo, parla delle quattro occasioni sprecate della scienza italiana negli anni 60. Grazie anche a Peter Bascapè in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.